Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Tutti sappiamo quanto consuma in più un'auto che viaggia a 150 km orari in confronto a una che viaggia a 130. È una differenza ben visibile anche ad occhio nudo, guardando la lancetta del carburante del cruscotto. In questi momenti in cui si stanno programmando le riduzioni di emissioni inquinanti, è intelligente e opportuno alzare i limiti di velocità? A me sembra che si lanci un messaggio esattamente opposto. Pierangelo. A proposito del limite di velocità a 150 km all'ora in discussione in questi giorni, fino ad ora, per sostenere la validità della proposta, si è fatto appello al miglioramento costruttivo delle autovetture, alle loro garanzie di sicurezza e alla tecnologia in genere. Ma che dire delle persone che guidano le autovetture? Un ragazzino di 19 anni, magari a bordo della Porsche di papà, è altrettanto sicuro di una persona più adulta? Non c'è il rischio che alla fine anche chi ha meno esperienza di guida si possa lanciare a velocità al di sopra delle proprie capacità, mettendo a rischio la propria vita e quella altrui? Francesco. Caro direttore Fabi, la caotica situazione politico-giudiziaria che il paese sta vivendo è, diciamo la verità, in gran parte dovuta al procedimento giudiziario a carico del premier Silvio Berlusconi, imputato a Milano per corruzione in atti giudiziari, ovvero per la subordinazione del testimone avvocato Mills. Ebbene, volevo chiederle alcune delucidazioni in merito ad alcuni passaggi della sentenza di appello che ha condannato l'avvocato inglese Mills. Già dopo la sentenza del giudice Gandus, Luigi Ferrarella del Corriere della Sera, non propriamente un berlusconiano barricadero, scriveva che i soldi restano il punto più controverso della sentenza. Dagli atti non è emersa la prova diretta della provenienza berlusconiana dei 600.000 dollari ai quali fa riferimento il capo di imputazione sulla base della confessione di Mills. La sentenza di appello riesce a provare la provenienza berlusconiana di quei soldi? Mi pare che in un passaggio si parli di ipotesi verosimile, ma non di prova certa. Non è un po' poco per condannare qualcuno sulla base di una verosimiglianza? Altra incongruenza rispetto alla sentenza Gandus: in appello la nuova sentenza si caratterizza per aver stabilito che l'ipotetica corruzione di Mills fosse avvenuta in un momento successivo alle sue deposizioni in aula come teste dell'accusa in alcuni processi. Si tratta di una fattispecie di reato che non è prevista dal nostro ordinamento, dal momento che l'articolo 319 ter del codice penale, che delimita la corruzione in atti giudiziari, esplicita che la corruzione deve essere tesa a favorire o a danneggiare una parte del processo, intendendo quindi un'azione attuata in vista di uno scopo futuro ed escludendo quindi la fattispecie della corruzione susseguente. Il fatto che non abbia senso prevedere un pagamento senza l'obiettivo di far succedere qualcosa in un processo, dato che il processo si è già tenuto, è stato confermato a chiare lettere per un curioso caso del destino, proprio dalla Corte di Cassazione nella sentenza Imisir Lodo Mondadori, dove si dice che si esclude la configurabilità della corruzione susseguente in atti giudiziari. È vero che poi un'altra sentenza della Suprema Corte ha detto l'esatto contrario, ovvero che può esistere la corruzione susseguente, ma io le chiedo, qual è l'interpretazione autentica della legge, ovvero dell'articolo 319 ter del Codice Penale? E, per finire, cosa pensa dell'artificio utilizzato dall'accusa di fissare il momento del reato non al momento del supposto pagamento, ma al giorno in cui Mills ha prelevato il denaro, solo per allungare i termini della prescrizione? Queste sono tutte domande a cui la Corte di Cassazione dovrà per forza dare una risposta convincente e a prova di bomba. Perché è vero che tutti sono uguali di fronte alla legge, ma se si vuole condannare un presidente del Consiglio in carica e non solo lui, le prove devono essere certe e schiaccianti, senza lasciare il minimo dubbio in un'opinione pubblica ormai sfibrata da 15 anni di caccia all'uomo. Cordiali saluti, Luca. Cara Radio 24, sabato sera stavo guardando la partita alla Corugna-Barcellona e nel secondo tempo il Barca sostituisce Iniesta. Con mio grande stupore tutto lo stadio applaude l'avversario. Sono sobbalzato sulla poltrona, soprattutto perché fino a pochi minuti prima mi ero sorbito Juve-Inter, dove di fair play non c'è stata ombra. A quando da noi un simile esempio di sportività come è avvenuto sabato sera alla Corugna? Secondo me mai, purtroppo. Saluti, Mirko. Cara Radio 24, ritengo che in Italia il problema del lavoro delle nuove generazioni sia gravissimo e costituisca addirittura un'emergenza. Il mio osservatorio è quello di un genitore di 3 figli nati alla fine degli anni 70 e inizi 80, in una famiglia della media borghesia, laureati, specializzati, masterizzati, che ancora sono a nostro completo carico, perché tra mondo della formazione e mondo del lavoro non esiste il minimo raccordo. Sono del tutto oscuri i canali di accesso. Infatti, l'inviare curricula, lettere motivazionali è del tutto inutile. Non si viene presi proprio in considerazione. L'accesso tramite concorso è poi pura utopia. I pochi bandi che vengono annunciati mascherano l'assunzione di coloro che già occupano i posti messi a concorso. Purtroppo mi sembra di capire che in Italia manchi proprio il lavoro, soprattutto quello intellettuale. Le proposte che mi sento di fare sono chiudere molte università, lasciando solo le eccellenze, spazzare via la miriade di corsi di laurea che sono proliferati e che sono totalmente inutili e fuorvianti, puntare a una scuola rigorosa che garantisca tutti gli standard formativi, ma che selezioni per merito chi punta agli studi più alti. Lo Stato progetti a scadenza almeno decennale il suo modello di società, per non cogliere impreparati coloro che devono orientare le proprie scelte. Infine, ciascun individuo svolga un solo lavoro per permettere a tutti l'accesso allo stesso e insieme garantire un razionale turnover tra generazioni. È per me inconcepibile che un medico, un magistrato, un insegnante, un politico vadano in pensione ad oltre 75 anni. La loro esperienza potrebbe essere affiancata all'energia del giovane che va ad occupare un determinato posto. Sicuramente nelle mie proposte ci saranno molte ingenuità. Non sono un esperto giuslavorista, ma senz'altro esprimono la necessità di cambiamento. Temo, purtroppo, che sarà difficile, ma chiedo almeno che se ne parli e non si liquidi il drammatico problema con frasi di circostanza. C'è una folla che, se non troverà risposte immediate, andrà ad ingrossare le fila degli emarginati o di coloro che emigreranno, e sarà meglio per loro. Distinti saluti, Fiorello. Cara Radio 24, quest'estate, per la prima volta nella storia, 2 mercantili hanno attraversato il mitico passaggio nord-ovest senza rompighiaccio. Sembra che gli abitanti della penisola scandinava siano sbigottiti e spaesati per questo cambiamento. Si può ben capirli, come se a noi sparissero le Alpi. E pensare che c'è ancora chi sostiene che la storia dell'effetto serra sia una montatura di invasati, gente che si diverte a fare gratuito terrorismo ambientale. Ma allora perché i ghiacci si ritirano? Sarà meglio andare a controllare che non ci sia qualche gigante cattivone assoldato da Greenpeace per raggiungere la cima delle montagne e versarci sopra dell'acqua bollente, come caffè sul semifreddo. Sotto i ghiacci che si stanno sciogliendo nel circolo polare artico stanno emergendo risorse preziose, microorganismi marini che gli scienziati stanno studiando per le loro proprietà terapeutiche, riserve di metano e chissà quanti altri tesori la natura ci sta nascondendo. Finalmente ho capito perché i governi temporeggiano, tentennano, si passano la patata bollente, fanno il gioco del comincia prima tu che poi arrivo io, e se non lo fai tu non lo faccio neanch'io, e tu hai inquinato prima, adesso tocca a me, e tutti gli altri giochetti da asilo Mariuccia, al termine dei quali non fanno niente di niente per fermare l'effetto serra. Quel sapientone dell'Homo sapiens sta aspettando con ansia che si sciolgano tutti i ghiacci, per poter pescare meglio, sondare meglio, sfruttare meglio, deturpare ed esaurire anche le ultime risorse. Raschiare il fondo del barile, insomma, fino a che si buca. Ma il problema è che il barile è già bucato. Silvio. Caro direttore, non voglio che questa mia lettera passi per una critica politica, perché è solamente una riflessione di un uomo comunista stanco. Stanco del revisionismo. Stanco di questa nuova strategia della disinformazione, o meglio, della distorsione sistematica dei fatti, al punto che non capiamo più il significato di nulla. Figuriamoci quello dei valori. Mi riferisco alle continue apparizioni televisive del premier Berlusconi per dire che lui arresta i mafiosi. Se continuiamo così, fra poco tempo, chiedendo a un ragazzino chi arresta i mafiosi, ti risponderà Berlusconi. E quei poveracci che ogni giorno rischiano la vita su pantere in riserva, con pistole e mitragliette dei tempi di Serpico, che fanno appostamenti di 12-14 ore senza essere pagati? Io ho la memoria corta, direttore, ma mi aiuti lei a ricordare se Prodi nel 2007 apparve in TV 9.849 volte per dire che aveva arrestato 9.849 mafiosi. A me sembra che non lo fece perché non fu lui o Berlusconi ad arrestare 9.849 mafiosi. Fu la polizia, e infatti il dato è sul loro sito. Moreno. Direttore, cito dal Sole 24 Ore. Barenboim definisce un genio la regista che ha curato l'opera. L'artista palermitana d'avanguardia Emma Dante, celebre nel mondo, che debutta finalmente davanti a tutto il paese. Ho poi letto che la regista non era mai entrata alla Scala. Quando si dice la persona giusta al posto giusto. Come faceva Barenboim a definire la Dante un genio, se non aveva mai visto una sua regia? Sarà un genio nella letteratura, nell'architettura, nella matematica, ma nella regia di un'opera lirica. Mi chiedo anche con quale criterio la Dante sia stata scelta. Forse con lo stesso con il quale si scelgono ministri o sottosegretari? Come poteva penetrare nell'opera più solare della storia della lirica, se non l'aveva mai vista o sentita? E infatti di solare l'altra sera non c'era che l'espressione della Dante quando diceva di sé «Sono orgogliosa di quello che ho fatto». E mi fermo. Giuseppe. Questa era una lettera selezionata tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.